Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Clicca, clicca, faccina arrabbiata, sì, e clicca. Buonasera, Napoli. Faccina arrabbiata, faccina, e clicca. Sì. Clicca. Salve ragazzi. Salve ragazzi, qui tutto a posto, andate pure. Ma cosa sta facendo Napalm 51? Cosa fa? Cosa? Non faccio nomi, sto ingannando i servizi segreti. Ma cosa sta dicendo? Non sa che appena accendiamo il computer si attiva la webcam e loro spiano tutto quello che facciamo. Ma non è vero. Allora gli faccio credere che stanno spiando Gianni Morandi, che è uno dei loro. Ma non è uno così dei così vanno loro a guardare altrove e io frego il fottutissimo sistema. Sì, bravo, ma guarda. Mamma! Il fatto che Napalm 51 sia entrato a pieno diritto nella televisione generalista, perché Crozza fa programmi comunque, anche se ha un pubblico abbastanza distinto, per la televisione comunque, che guardano anche le famiglie, significa che qualcosa sta cambiando veramente nella percezione comunque del reale. Noi ci troviamo in un momento molto particolare in cui abbiamo gli strumenti individuali di lettura della realtà e a seconda di quella che la nostra coscienza, la nostra sensibilità, la nostra capacità di essere dei maturi osservatori della realtà, diamo loro un livello di evidenza graduale. Esiste però una fetta di umanità che in realtà è esattamente come Napalm 51. Ha ormai messo le mani su quelli che sono gli strumenti individuali per arrivare comunque, per avere l'illusione perlomeno di arrivare comunque, e mette in dubbio tutto ciò che ci può essere oltre quello che è il territorio, il limite dentro il quale loro riescono a muoversi, quello che riescono a lambire. Questa mattina vorremmo fare proprio un'analisi di quelle che sono le mutazioni, le variazioni della percezione generale di quello che sta accadendo, perché se l'umanità ormai vive riflesso in un mondo fatto di social network, fatto di rete, fatto di cose che ci si scambia e si condivide attraverso il proprio smartphone, l'umanità probabilmente via via gradualmente perderà degli strumenti di analisi. Voi direte, ma chi se ne importa? Gli strumenti di analisi sono sempre stati condizionati da coloro che volevano imporci la loro volontà, dai gruppi di potere, dai giornalisti corrotti, dai grandi gruppi editoriali che hanno sempre spalleggiato comunque l'economia più deleteria. Può anche essere questo, ma questa mattina vorrei che vi confrontaste e ascoltaste quello che in realtà ci stiamo perdendo e la direzione in cui stiamo andando, pensando che la realtà sia quella che ogni giorno ci mandano i nostri amici attraverso dei post che noi suggelliamo con un like, con una faccina, con un insulto, e ci sembra di stare dentro il grande mondo del racconto della realtà. A tra poco. Melog. Cronache meridiane. Il neopresidente americano ribadisce l'intenzione di costruire un muro al confine col Messico. In alcune parti, spiega, si tratterà semplicemente di uno steccato, una recinzione. Il rafforzamento della frontiera messicana è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna elettorale del repubblicano. Confermata anche l'intenzione di espellere i clandestini, a partire da quelli con precedenti penali. Una cifra, spiega Trump, tra i 2 e 3 milioni. Poi decideremo cosa fare anche con gli altri irregolari, ha aggiunto il tycoon, che lancia poi un appello ai tantissimi manifestanti che da giorni protestano contro di lui al grido di Trump non è il mio presidente. Lo fanno perché non mi conoscono, dico loro di non avere paura, le parole del futuro inquilino della Casa Bianca, che poi ha definito alcuni di loro in questo come professionisti... particolare momento. Poi arriva Donald Trump. Io lo guardo dall'osservatorio locale nostro, italiano, provinciale, limitato. Improvvisamente Trump è diventato un'idea forza, è diventato un personaggio chiave, è diventato il catalizzatore di quel fenomeno che noi stavamo lambendo, cercando di spiegare. Alessandro Lanni, buongiorno. Buongiorno. Alessandro Lanni è un giornalista, è responsabile del blog Populismi, un osservatorio su ciò che si agita nella pancia d'Italia, dell'Europa e degli Stati Uniti. Aveva scritto un libro di cui abbiamo parlato, Avanti Popolo, Piazze TV Web, Dove va l'Italia senza partiti, che uscì per Marsilio Edizioni. Oggi mi sembra che il problema Dove vada l'Italia senza partiti sia bypassato da questo fantastico e variegato mondo che tu hai analizzato nel tuo blog, ricordo anche l'indirizzo, populismi.wordpress.com, dove tu ogni giorno analizzi quelli che sono i fenomeni più eclatanti di questo fenomeno, di questa tendenza al populismo. Ecco, partiamo da Trump. Trump ci sarebbe stato nella maniera in cui è percepito se non ci fossero stati social, se non ci fossero stato questo fenomeno dilagato della informazione fai da te, della necessità di confermare un proprio punto di vista attraverso l'attività costante e continua in rete. È molto difficile determinare quali sono state le ragioni che hanno fatto sì che un personaggio che fino a 12 mesi fa sembrava improponibile anche come semplice candidato nella corsa all'elezione alla Casa Bianca, sia poi riuscito a vincere davvero quella gara. Non so, sicuramente c'è da dire che Trump ha capito benissimo il funzionamento dei social media, ha capito benissimo, lo sta dimostrando anche in questi giorni, come usare Twitter in particolare e come far di sponda attraverso questa piattaforma con i grandi gruppi editoriali. Certo, è cambiato notevolmente il tipo umano che noi pensavamo e consideravamo nella nostra confezione di luogo comune come digitalmente avanzato. Non immaginavamo che lo smanettone che usa Twitter in maniera efficace poi fosse una persona che è così lontano da ogni stereotipo di digitalmente avanzato come proprio Donald Trump. È quello. È molto vero. Se si mettono a confronto, per esempio, l'uso che faceva Barack Obama, il predecessore alla Casa Bianca, di Twitter, e l'uso che ne sta facendo ora Donald Trump, è sintomatico il cambiamento. Barack Obama aveva un uso molto inclusivo, molto positivo, direi, tra virgolette, del messaggio che faceva passare attraverso Twitter. Trump ha un uso molto polemico di quello strumento, aizza il suo elettorato, cerca consenso attraverso la polemica. Ecco, come definisce oggi la chiave contemporanea del populismo, che passava una volta attraverso altri sistemi di diffusione dell'informazione, del sapere? Oggi il populismo innanzitutto ha una sintesi estrema, all'osso, è radicalmente ridotto all'osso il messaggio che deve passare, e poi ha la necessità di non avere un'articolazione complessa, non essere pensieri molto semplici e molto facili da sedimentare e poi dividere e condividere. Sicuramente questo c'è. C'è un'altra caratteristica che a me sembra molto, molto importante e che mette insieme i due discorsi, quello sul populismo nel mondo politico occidentale e quello di un certo uso dei social network che viene fatto in questo momento, ovvero la polarizzazione. Noi contro di loro, noi popolo puro, voi elite corrotte. Ecco, diciamo che questo modello del populismo che attraversa l'Atlantico in questo momento si ritrova molto spesso, non sempre, ma molto spesso anche sui social network. Walter Quattrociocchi, buongiorno. Buongiorno. È un ricercatore, dirige il laboratorio di scienze sociali e computazionali dell'Istituto EMT, istituzioni, mercati, tecnologie di Lucca. Ha scritto anche lui un libro insieme a Antonella Vicini, Misinformation, guida alla società dell'informazione e della credulità. Franco Angeli. Come mai, se noi abbiamo iniziato parlando di Trump questa trasmissione, già immagino che ci arriveranno messaggi di aperta ostilità, come se noi fossimo quasi arrabbiati del fatto che non ha vinto la Clinton, che ha vinto Trump. Com'è proprio in Italia c'è stata una così profonda e radicale affezione per quelle che erano le elezioni americane, anche da parte di chi in fondo non se ne è mai importato molto? Se tu provi a parlare di Trump in termini non elogiativi, c'è subito quello che ti scrive su Twitter, ti scrive su Facebook, ma lo so, l'ho toccato con mano, ti rode, voi è finita per voi, radical chic, adesso arriverà finalmente, via dicendo. Come fa un medio twittatore italiano, non scolarmente particolarmente voluto, a pensare che Trump lo rappresenti? Beh, c'è tutto, diciamo, ereditiamo in qualche modo un discorso che sta avvenendo su tutto il pianeta, perlomeno quello occidentale, che riguarda una fortissima contrapposizione tra l'elite intellettuale passata, o meglio, che vorrebbero tutti vedere passata, e il populismo che dà risposte più semplici. Il marchingegno è esattamente questo: mi avete portato alla catastrofe con i vostri discorsi, i vostri discorsoni da professore, nei vostri latinismi, quindi in qualche modo un'avversione contro il potere pregresso. Il problema è enorme, che potrebbero anche aver ragione su questo, perché effettivamente alcune risposte non sono state date, alcune volte l'elite intellettuale parla a se stessa neanche capendo bene quali paradigmi utilizza, è molto confusa, ma dall'altra il problema è che ci sono... Il crollo dell'elite mi sembra un dato di fatto, comunque, certo. attraverso la rete, l'analisi della rete, che nasce come un fenomeno elitario. I primi anni si parlava come un'elite, persone illuminate che si affacciavano a questo mondo perché avevano questa idea della condivisione, il mondo digitale. Oggi l'elite è stata spazzata via dalla rete. La rete è popolo e basta. Popolo, una definizione anche molto limitata e molto superficiale. Concordo perfettamente. La tendenza è proprio quella, praticamente a distruggere qualunque tipo di rapporto autoritario e reputazionale in favore di quel pregiudizio di conferma. Cioè, tu mi hai tradito, tu mi hai messo in una condizione dove io adesso provo disagio, quindi io voglio qualunque cosa, ma l'importante è che tu non ci sia più, riferito all'elite. Tanto che si preferisce l'incompetenza manifesta, anche in Italia abbiamo avuto casi di questo tipo, l'incompetenza manifesta a un minimo di discorso più spicciolo e magari scevro da narrazioni. Ecco, ci sono due fenomeni che molto spesso vengono confusi tra di loro. Vediamo se riusciamo a fare un punto. L'esplodere dell'odio in rete, gli attacchi indifferenziati verso le persone, le catene di odio e la diffusione di notizie false. Le notizie false però sempre strumentali comunque. Ecco, quali sono i limiti e i confini di questi due fenomeni in rete, nei social soprattutto? Sono fenomeni che in alcune circostanze si sovrappongono, però hanno natura molto diversa. Allora, l'utilizzo delle fake news poi è un uso di una narrazione a fini persuasivi, quindi in qualche modo non è prerogativa di un gruppo piuttosto che un altro, perché se uno va a prendere la campagna elettorale di Trump e la Clinton si vede che c'è ricorso a informazioni non verificate da entrambe le parti. Noi stiamo finendo uno studio adesso dove si verifica sta cosa anche sulla questione referendum, pro sì, pro no. Ci hanno provato tutti, ecco. Sì, ci provano tutti perché devono convincere, devono vendere, no? Diventa in qualche modo l'overselling, bisogna vendere a tutti i costi la posizione per conquistare più clienti possibile, la dinamica è diventata questa. Senti, ma c'è chi questo lo studia, lo mette a punto, analizza e trasferisce le tecniche, o è un fenomeno che avviene spontaneamente, pian piano la rete si autostruttura su questa tendenza? Credo che sia un fenomeno emergente, perché per quanto ci siano i vari maghi che propongono e propinano il fatto che questo fenomeno sia controllabile, è pieno di marketer adesso che interpretano i dati e fanno le previsioni sui sondaggi guardando a Twitter, dicendo boiate scientifiche che non finiscono più. Il fenomeno è strettamente emergente, perché più cresce la polarizzazione, questa divisione in gruppi, più il fenomeno in qualche modo si inasprisce. Vediamo Alessandro Lanni tornare all'analisi del populismo. Vediamo quali sono le forme attraverso cui passa il populismo che ha maggiormente presa in rete. Abbiamo toccato Trump, non vogliamo fissarci soltanto sull'idea di Trump, anche molto più semplicemente, anche riguardo alla nostra politica locale, anche riguardo ai fenomeni, anche agli episodi di cronaca che poi alla fine diventano grandi motivi e grandi momenti. Parlammo ieri della storia delle palme a Piazza Duomo, già c'è chi faceva girare al Duomo di Milano trasformato in una grande moschea, cioè stanno creando una strada aperta per islamizzare, africanizzare l'Italia. Ecco, chi è che mette a punto queste cose? O sono persone che ormai non hanno nulla da perdere, sono talmente brave, più la sparano grossa e più funziona? Direi che questo è sicuramente un aspetto, diciamo. La vita che hanno questi episodi, la vita, diciamo, di notizia, di realtà, tra virgolette, che hanno questi episodi è sempre molto breve, nel senso probabilmente la settimana prossima ci saremmo dimenticati sicuramente di questa manifestazione del fuoco alle palme, così. Certamente funzionano perché ormai c'è una visibilità estrema di una piccola manifestazione che è stata fatta davanti al Duomo di Milano da due alberi bruciati durante la notte, ecco. un piccolo episodio guadagna una grande visibilità. Questa è una responsabilità, da una parte sicuramente della viralità, tra virgolette, di questi episodi, dall'altra c'è da dire della stampa, anche della stampa tradizionale, che amplifica questi episodi, nel senso che non ci fossero anche i giornali, anche le televisioni a raccontare questi episodi, probabilmente rimarrebbero quello che sono, dei piccoli episodi di cronaca locale. La frase che ti senti dire nei giornali comincia a tremare quando ti chiamano e ti dicono: questa cosa è carina, dai, facci un pezzo sopra, è carina. Poi carina non è niente, è uno che si è inventato qualcosa, però diventa, entra nel mainstream e raggiunge il suo scopo, diventa oggetto di discussione. Ci fermiamo soltanto un istante, tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. Giusto che riequilibriamo la nostra osservazione, il coro dei bambini che era legato appunto alla buona scuola, che inneggiavano a Matteo Renzi, fa parte degli inizi, dell'idea della narrazione, del grande piano renziano che anche lui usava comunque i social. La prima apparizione di Renzi, al di là della sua definizione di sindaco di Firenze, quando fece le primarie, ti ricordi, aveva sempre lo smartphone in mano, diciamo, quanto è moderno, vedi, sta twittando mentre parla. Poi in realtà anche questo comunque ha seguito una via che è la lettura speculare del trumpismo, perché anche lì si usava molto l'aspetto demagogico e soprattutto l'aspetto populista. Walter Quattrociocchi, vediamo di capire in realtà, così facciamo contenti quelli che ci scrivono: infami, ve la prendete con Trump, adesso arriverà. Ecco, anche Renzi in realtà in questo ha fatto i suoi sbagli. Beh, in qualche modo ha intercettato una tendenza, credo, quella tendenza in qualche modo andava contrastata, perché fino a quel momento i social erano stato dominio di un gruppo, di un movimento politico, del Movimento 5 Stelle, quindi in qualche modo anche entrare lì in comunicazione in qualche modo era d'obbligo. Poi nell'uso che ne è stato fatto si è creata una narrazione, ma come hanno fatto un po' tutti. Rispetto a Trump però c'è da dire, insomma, c'è da spezzare una lancia a favore di Renzi. Beh, certo. C'è il fatto che Trump è contro qualunque tipo di atto costitutivo che non sia quello che dice il popolo, e questo spesso è un errore, perché poi alla fine diventa un po', diciamo, replica la tendenza di quella che c'era con i sondaggi, no? Facciamo i sondaggi così facciamo contenti le persone, quindi la politica entra in loop, si abbassa sempre di più e si accorcia sempre più la visione di lungo termine di quello che dobbiamo fare. Ricordi quando girava il tormentone: un presidente del consiglio non eletto dal popolo, tutti erano questa cosa qui, come se il presidente del consiglio fosse eletto dal popolo, basta, non ne possiamo più i presidenti del consiglio non eletti dal popolo. Questo era vero per tutti comunque, e questo è stato utilizzato, è stato uno degli argomenti del no. Noi stiamo facendo degli studi su questa cosa qui e c'è proprio è stato uno degli argomenti del no. Poi spiegare la faccenda, ti dicono che in qualche modo è una semplificazione del processo, per cui lui non è neanche stato eletto in Parlamento, quindi non essendo neanche stato eletto in Parlamento è venuto proprio dall'outside, quindi quasi imposto dall'esterno. Poco importa che abbia preso poi il 42% alle europee, insomma. Però insomma, diciamo, il processo dialettico è sempre quello, cioè cerco di convincere la mia fazione, la mia tribù, in un sistema ideologico narrativo che in qualche modo è necessariamente di parte per come è definito e non contiene tutta la realtà, anzi ha una visione molto strumentale. Ecco, ma visto che state facendo posteriore analisi in questa guerra tribale, perché è una guerra tribale, si sono abbandonati tutti gli strumenti tradizionali, anche della civiltà, del dibattito politico, che può essere anche serrato, anche virulento, ma siamo veramente alla faida di paese proprio sui social. Ci sarà una possibilità di uscire da questo loop, o se no o ci si butta dentro, si fa quello che fanno gli altri, bisogna per forza turarsi il naso e sparare più forte possibile, se no non si viene compresi. Se volessi fare una campagna eticamente sostenuta, intelligente, non populista, non basata sulla menzogna, sull'attacco e sull'odio, avrei possibilità di avere un po' di successo? No, mi pare. Purtroppo no, e bisogna infatti proprio entrarne nell'ottica che questo è un problema che non passerà oggi, anzi andrà esplodendo col tempo. E non a caso ci siamo posti il problema con vari giornalisti, con vari ricercatori, vari intellettuali e tutto, di che cosa facciamo su questa faccenda qui. E l'idea è stata quella di creare l'osservatorio permanente sulla misinformation, dove facciamo screening sui social di quello che succede continuamente e vediamo quali sono le tematiche che polarizzano di più, perché poi più un argomento è polarizzante più c'è ricorso alle fake news, e l'idea è quella di capire quali sono i marchingegni che servono ad abbassare questa polarizzazione. Ma come fai a uccidere una fake news con il buon senso? No, perché è più bella, la fake news ha un suo tratto di fascino, di brutalità affascinante, che piace, capito? Difficile portare il buon senso. Poi ti dicono buonista, voi buonista, radical chic, voi radical chic, voi buonisti e via dicendo. Questo è chi prova un passo lievemente diverso dall'attacco sconsiderato e violento, è un buonista radical chic, è tornato questo termine. Infatti bisogna rompere questa simmetria, è un problema narrativo diventa, cioè, infatti l'idea è quella di avere strumenti quantitativi forti, al di là delle varie, diciamo, speculazioni che ci possono essere, strumenti quantitativi che permettano di individuare quali sono i punti fermi di una narrazione e crearne una inclusiva, quindi c'è in qualche modo parlare con le persone. È molto difficile, è molto lunga come pratica. Allora, Alessandro Lanni, ricordo che responsabile del blog Populismi, che è un osservatorio tutto quello che in Italia si va muovendo anche su fatti europei. La probabile ascesa di Marine Le Pen, che ancora non è vista come qualcosa di totalmente possibile, non voglio chiederti delle previsioni, vorrei sapere sul metodo come si sta muovendo. La differenza fra Trump e la Le Pen e gli altri nostri, diciamo, le peniani italiani. Qualche tempo fa ho pubblicato un post appunto sul nostro blog intitolandolo Il populismo soft di Marine Le Pen. Non è Salvini che quando va duro, va pesantissimo, lo usa al massimo della possibilità di essere dirompente come strumento. Esattamente, io credo appunto che ci sia una profonda differenza in fondo, e in fondo non una grandissima stima in generale per i populismi europei che vanno dall'Olanda, l'Inghilterra, l'Olanda, la Francia, l'Europa dell'Est nei confronti di Donald Trump. Da una parte c'è un apprezzamento e si cerca di sfruttare quel tipo di successo, dall'altra ci sono personaggi molto diversi, nel senso questi sono tutti cresciuti a pane e politica, sono tutti politici di professione. Marine Le Pen aveva un tale padre, Jean-Marie Le Pen. Geert Wilders è uno tra il leader. Ma questa è stata costretta a prendere anche un po' le distanze, perché esatto, andava oltre. Esatto, ad allontanare addirittura il padre dal Front National. E io credo che anche in questa situazione molto positiva per lei in Francia, cioè la crisi profonda del partito e del candidato Fillon, che doveva essere appunto il candidato della destra moderata, lei stia navigando molto bene e in maniera molto sobria, cercando di evitare l'esplosione violenta sia attraverso i social sia nella campagna elettorale che è iniziata pochi giorni fa. Ecco. Nel tuo blog ci sono dei post dedicati proprio al concetto di popolo. Il popolo della rete, in un'accezione passata, anche pre-social, erano le persone digitalmente avanzate che stavano in rete, che stavano in questo fantastico mondo le cui chiavi erano la democrazia, la condivisione, la perdita del possesso sui dati, ma il valore condividere. Oggi il popolo della rete è un'altra cosa, è assolutamente un'altra cosa. Il popolo è proprio il popolo che si manifesta attraverso la rete come elemento di coesione. Sono i valori proprio del populismo più storicamente evidente. Sì, uno forse la caratteristica fondamentale del populismo, così come appunto ritorna tra l'Europa, gli Stati Uniti e in parte anche insomma in altri paesi, per esempio immagino nel sud-est asiatico, è quella della contrapposizione molto violenta, non solo tra popolo ed elite, ma tra popolo puro incontaminato ed elite corrotta, e questo è un asset fondamentale, direi, che si ritrova anche in Italia, se pensiamo a certi discorsi del Movimento 5 Stelle, proprio la necessità di non contaminarsi, e chi si contamina viene messo immediatamente fuori dal popolo puro, o comunque dai rappresentanti del popolo puro. Questo è, mi sembra, un tratto fondamentale che si ritrova anche in certe discussioni molto accese sui social network. Ecco, l'elite indubbiamente ha tradito la sua funzione, non ha rappresentato più nessun valore di distinzione, e questo è chiaro. È altresì chiaro che adesso l'elite viene messa alla berlina, viene presa in giro, e ricorre sempre questo termine che lo trovo molto legato al populismo contemporaneo, l'avevo detto prima, questo fatto che esista una lettura delle terre in quanto politicamente corretta. Il politicamente corretto è considerato l'apice dell'ipocrisia, che in parte può anche essere vero, abbiamo toccato dei parossismi senz'altro, ma si confonde il politicamente corretto con il civile, con la civiltà, con l'apertura verso il mondo, verso le persone, col riconoscimento delle persone umane. Perché c'è questo politicamente corretto che è diventato la chiave di denigrazione di un comportamento civile contro l'inciviltà? Ammazziamoli tutti, buttiamoli tutti fuori, fuori, basta con questo politicamente corretto. Ho l'impressione che sia frutto di una grande frustrazione individuale, di una grande frustrazione di fronte appunto a un mondo che in parte sta cambiando, e non è un caso che proprio questo tipo di atteggiamento di conflittuale si dimostri proprio in qualsiasi discorso riguardi i rifugiati, i migranti, la gestione di questi fenomeni, che sono fenomeni strutturali e che quindi andrebbero, come dire, compresi in altro modo. Ecco, l'idea di tutta la retorica che viene utilizzata, per esempio, da Matteo Salvini su questi temi è per molti versi una retorica che non ha nessuna idea di policy dietro praticabile. Noi non possiamo, per esempio, rimandarli a casa in maniera preventiva. Ci sono delle norme che dicono che dobbiamo appunto trattare in una certa maniera, ricevere le loro appunto domande d'asilo e via dicendo. Ecco. Ci fermiamo un istante, tra poco. Melog, cronache meridiane. Informazione, le televisioni. Ma una cosa l'ho capita, che se siamo in queste condizioni la responsabilità la possiamo avere qui davanti. Eccola qui, noi ce la prendiamo con la politica, ma senza un'informazione così, una politica così non ci sarebbe mai stata. Allora, non parlo di queste cose, non parlo dei presenti giornalisti, non parlo di voi che siete mandati a fare un lavoro, capisce il lavoro. Walter Quattrociocchi, adesso ecco, nella narrazione di Grillo viene fuori la contrapposizione reale. Chi finora si è occupato di informare, di avere gli strumenti della mediazione, in realtà ha fallito completamente il proprio ruolo. Perché? Perché rispondeva a delle logiche infami, ai gruppi di potere, è un corrotto, ha un privilegio. Fare il giornalista oggi si sente come ci si poteva sentire ai tempi della Rivoluzione Francese, a far parte comunque di un ceto medio, capito? Devi smettere, devi chiudere, non esiste. Però l'alternativa non è uno strumento altrettanto forte di racconto, perché l'alternativa al passato o al presente dell'informazione, che può essere pieno assolutamente di pecche e di incongruenze, è un'informazione molto selettiva, da mincul pop, parla soltanto chi deve parlare, non c'è libertà di espressione, c'è un controllo verticistico su quelli che parlano. Ecco, come mai il populista non si accorge di questa cosa qui? Non gliene importa niente, contento, va bene lo stesso. Sì, l'importante è che gli si parli alla pancia. Delle cause, delle conseguenze dell'azione, delle scelte che fa è poco rilevante, ma questo è un po', diciamo, questo è poi orizzontale, cioè questa è sempre una cosa abbastanza umana dei vari gruppi, insomma, di riferimento, perché poi alla fine pure chi si arrabbia con l'elite vuole sostituire un'elite con un'altra elite, cambiano i prerequisiti, ma l'atteggiamento è sempre... Alla fine è quello, certo. Il marchingegno è sempre lo stesso. Cioè, di fatto, che la cosa che a me preoccupa particolarmente è il fatto... Nessuno smette il saio... E fa una classe di sacerdoti, come diceva Platone, no? Sì, alla sofocrazia, insomma, potrebbe essere una soluzione, non so quanto percorribile, però resta il fatto che i problemi reali ci sono e andiamo incontro ad una globalizzazione che andrà sempre più forte. Noi stiamo pensando a una frammentazione di fronte a un Trump, di fronte a un'Europa divisa, cioè noi non andiamo un po' in qualche modo ad avere un atteggiamento masochistico in generale, e non è difficile da spiegare. Infatti la comunità europea un po' in qualche modo si è posto il problema dicendo: stiamo raccontando male quello che stiamo facendo. Ecco, io volevo fare una domanda a entrambi i miei ospiti, una domanda che dovrebbe aprire un aspetto di riflessione positiva, ottimista rispetto a quello che stiamo dicendo, perché se il trend è questo e avanti così, non avrà più senso avere nessun luogo dove si informa, nessuna mediazione di informazione, sarà soltanto il caos fino a se stesso, chi più forte la spara più ha ragione. Ecco, tu mi hai detto prima, Quattro Ciocchi, che è impossibile assumere degli atteggiamenti antitetici rispetto alla violenza, rispetto alla radicalizzazione, rispetto alla forza delle parole. Ma allora qual è l'alternativa? I giornali continueranno, i giornali, i luoghi di informazione continueranno a vivere rosicchiando quello che accade nei social, pubblicando come fa Gazebo i tweet dei politici. Gazebo ci ha fatto una trasmissione anche divertente, è anche divertente, ha trovato una nuova dimensione, però dov'è la mediazione in questo? La mediazione non c'è più, hanno ricostruito i corpi intermedi su paradigmi diversi, c'è cambiato il paradigma e non è sicuramente una cosa che si risolverà nell'arco di poco tempo. C'è tutta la parte di infrastruttura che selezionava l'informazione, la discute, e i sistemi di reputazione, i valori reputazionali dell'informazione e tutto l'ecosistema stanno riemergendo, perché quello che c'era prima è stato spazzato via, nonostante le resistenze di chi dice: ah no, facciamo fact checking. Cioè, fare l'idea di dire facciamo fact checking per risolvere le fake news a fronte di prove scientifiche è fake news esso stesso. Quindi, perché il fact-checking non ha speranza. No, noi abbiamo fatto un esperimento. Perché la cazzata prevarrà sempre sulla saggezza. No, ma neanche, non viene proprio presa in considerazione, si allontana dalla narrazione di riferimento, anzi struttura il pensiero. Facciamo un esempio, vediamo se riusciamo a fare un esempio per far capire. Un esempio palese, cioè quando diciamo che rimanere nell'Europa potrebbe avere dei vantaggi, mentre l'alternativa populista dice no, anzi l'Europa... Usciamo dall'euro e tutto. Se uno porta delle prove discusse, più o meno in qualche modo rappresentabili del passaggio economico, non ti guardano neanche. E se entrano nella discussione si aumenta solamente la polarizzazione. Quindi... Si è un prezzolato, fa gli interessi, sì, dei grandi gruppi, delle banche, adesso le banche soprattutto. Delle il pregiudizio di conferma domina tutto il processo, non è proprio... c'è questa tendenza ad acquisire l'informazione soltanto se è favorevole alla propria visione del mondo, è dirimente. Alessandro Lanni, quindi a questo punto chi si sentisse sinceramente, concretamente ispirato di lasciare una traccia nel dibattito generale, una traccia in cui crede, etica, riflessiva, deve fare il populista a tutti i costi. Guardati, rispondo con una mezza battuta. Pochi giorni fa Mark Zuckerberg, il capo indiscusso fondatore di Facebook, ha pubblicato un lunghissimo manifesto che in molti hanno, e direi anche abbiamo, interpretato come una discesa in campo in qualche modo in politica del fondatore di Facebook. Ecco, questa in molti la vedono una speranza. Io ho dei grossi dubbi che noi possiamo sperare di salvare la democrazia grazie a Facebook e grazie a un miliardario con qualche idea sull'invenzione di piattaforme per la post-democrazia, ecco. Cioè miliardario contro miliardario alla fine. Sì, appunto, in una lotta tra appunto quella che Zuckerberg chiama global community, una comunità globale, contro i nazionalismi portati avanti da vari populismi in America. Sì, ma la sua discesa in campo, ammesso che ci siano gli elementi per definirla, cosa dovrebbe portare? Qual è la realtà rispetto a questa notizia che girava? la realtà è che ha una forza mobilitante enorme, nel senso che una piattaforma di quasi 2 miliardi di persone sparse nel mondo, se convoca una manifestazione, convoca alcune mobilitazioni, riesce appunto a spostare l'opinione pubblica in maniera potente. Questo è indiscutibile. Ma Walter Quattrociocchi non soltanto c'ha anche le chiavi della cassaforte, in realtà lui con Facebook fa quello che vuole. Gli altri non lo considerano, lui è quello che decide cosa guardare, cosa non guardare, cosa evidenziare, può cambiare alcuni applicativi, già cambia Facebook completamente. Ma infatti questo è stato l'esperimento che hanno fatto già nel 2015, variando alcune cose, cioè cambia proprio la percezione e come le persone si spostano. Cioè, è il suo, ci fa quello che vuole. Il problema è proprio questo, cioè invece di parlare di fake news, hate speech e tutto, cioè il marchingegno abbiamo capito come funziona, domina il confirmation bias e il dialogo tra tribù. Il problema è che Twitter e Facebook, con il potere di veicolazione di contenuti che hanno, e sono dei media nonostante ci sia chi dicono... Questi due, gli altri non esistono ancora. Gli altri non esistono ancora, però che si autoregolino, loro anche devono riconoscere la terzietà di un ente che monitori quello che fanno. In comunità europea io sto spingendo tantissimo questa cosa, perché una variazione sull'algoritmo potrebbe avere effetti devastanti su ciò che circola o meno, e le scelte che fanno influenzano. Lui non avrebbe bisogno, Zuckerberg, di scendere in campo, basta che cambia qualcosa nell'algoritmo. La manipolazione nessuno, di massa è possibile. Nessuno può saperlo, anche fra l'altro. Te ne accorgi con le cose fatte. Questa è la cosa fantastica, tutto sommato fantastica, su cui bisogna riflettere. Perché... Questo è il mostro dei social. Cioè, quando parliamo del confirmation bias, e uno che segue una narrazione, stiamo dicendo che basta infilare delle informazioni che siano più o meno coerenti per manipolare la massa e portarla dove voglio. E questo è il pericolo vero, il pericolo reale. Per questo bisogna fare qualcosa, per questo bisogna smetterla di parlare di fake news come se fossero il mostro della democrazia. C'è un altro potere molto più potente dietro, che in qualche modo va confinato e controllato, va benissimo, ma deve accettare la terzietà legislativa. Oddio, c'è anche un discorso imprenditoriale, fa queste cose, costa un sacco di soldi, e lui potrebbe dire: ma chi me lo fa fare? Io sono il moralizzatore del mondo, però è spendere soldi per riportare l'onestà in Facebook, la vedo molto difficile. Sì, io sono, appunto, questo è quello che rende anche preoccupante il tutto, cioè uno che al tempo stesso è un grandissimo, uno tra i più grandi miliardari al mondo, al tempo stesso gestisce la piattaforma di distribuzione delle informazioni più potente al mondo, che questa, come dire, abbia intenzione in qualche modo di incidere sulla politica americana e va da sé globale, è qualcosa che ci deve preoccupare. Voglio dire, noi, la democrazia così come l'abbiamo conosciuta sarà in crisi, sicuramente, come dire, la soluzione non può essere quella lì. Oddio, lui potrebbe anche dire: i soldi ormai l'ho fatti, chiudo bottega e fatti vostri. Anche questo potrebbe, ma la vedo un po' difficile. Grazie Walter Quattrociocchi, grazie Alessandro Lanni, grazie a quelli che ci hanno ascoltato. A domani.